Qual è lo speciale connotato, il tratto caratteristico che distingue il convento di donne dal convento di uomini? È rimasto inosservato al mondo finora. Lo rivelerò io. È la confessione. Nell'anno 1571, per ordine dell'arcivescovo Carafa, fu imposto a tutti i monasteri di donne soggetti alla sua giurisdizione di scacciare i monaci dal confessionale e indi in poi non ricevere per confessori che preti secolari. Questo mutare, narra la cronaca di Suor Fulvia, dispiacque a tutte, sì per essere quei padri di tanta edificazione, sia anche perché non ci persuadevamo che i preti secolari, così di leggero, potessero avere saggio di quello che conviene alle regole claustrali. Ebbe questa separazione per effetto che nell'argomento della confessione non vi fu più conformità di parere e di sentimenti fra i monaci di diverso sesso, che se ufficio semplice e facile a praticarsi è presso i monaci questo sacramento, per le monache però non è così. L'argomento della confessione assorbe le giornaliere notturne cure di queste, occupa i loro pensieri, fissa i loro sentimenti, fornisce alle loro ricreazioni alimento inesausto. Con l'andare del tempo, la confessione è divenuta per esse la condizione senza la quale loro non esistono, scienza occulta che si impara nel silenzio del carcere, parte per propria esperienza, parte per mutuo insegnamento, specie di camorra che ha i suoi adepti, i suoi taciti regolamenti, i suoi capi, il suo codice penale. Supponete un qualche concilio che nei conventi donneschi sopprima il bene supremo del confessionale. La nazione potrà dispensarsi dal colpire per espressa legge l'avvenire del monachismo. Tanto, almeno per le monache, i monasteri si scioglierebbero, a parer mio, per atto di spontanea disposizione. E ciò in un periodo di tempo non più lungo di qualche settimana. Prima di entrare in San Gregorio Armeno, ricorrendo la festività di Natale, mia madre mi aveva dato per confessore quello della zia Lucrezia. Era egli un vecchio rustico e brontolone, ma nel fondo un buon prete. Abituata ad accostarmi riverente e sommessa al confessore, riguardava in lui non l'uomo, ma piuttosto il ministro della divinità, e gli veniva a confessarmi ogni lunedì. Trovai i confessionali a modo di piccoli gabinetti da ogni parte diligentemente riparati e con entrovi uno sgabello per sedere comodamente. Domandai perché le monache si confessassero sedute contro l'universa consuetudine. Mi venne detto che, non essendo possibile di rimanere 2 o 3 ore in ginocchio, usavano le penitenti genuflettersi soltanto nel momento dell'assoluzione. Come? Esclamai maravigliata. Vi occorrono 2 o 3 ore per dire al confessore che non avete voluto né potuto commettere peccati in 2 o 3 giorni di vita claustrale? Che mai dunque sarà della povera gente mondana, molto più di voi soggetta alla tentazione? Dovrebbero dunque gli agricoltori disertare i campi, gli operai chiudere la bottega e convertirla in confessionale e spendervi un'intera giornata a ginocchioni? Ben sappiamo, mi risposero, essere usanza presso la gente mondana di non fare che una confessione di pochi minuti, ma noi non solo esterniamo i nostri piccoli peccati, non essendovene dei mortali nel monastero, ma vogliamo inoltre che il confessore, persona fidata di nostra elezione, ci diriga in tutte le operazioni del vivere. A lui confidiamo i pensieri, gli affari, i progetti nostri, essendo egli l'unico amico, l'unico sfogo, l'unico intermediario fra il cielo, il mondo e il chiostro che ad una monaca lecito sia di possedere. Smembrate dalla famiglia, noi ritroviamo in lui l'amore paterno, la materna tenerezza, l'affetto dei fratelli e delle sorelle, mentre dal mondo separate, nell'intimità che cordialmente a lui ci congiunge, rinveniamo la personificazione dell'universo in compenso della nostra solitudine. Insomma, dopo Iddio, il confessore è per noi il tutto. Tu, pur fra breve massimamente, se ti induci a lasciare quel vecchio e demente confessore che ti fu dato, per sceglierne un altro più giovane, più atto a dirigere il tuo spirito, tu pure passerai deliziosamente un paio d'ore nel confessionale. Qual trattenimento di cattivo gusto, risposi io. Preferirei un duetto di Rossini sul mio pianoforte. e infatti io deplorava la fatalità che mi toglieva, fra le altre cose, l'uso diletto della musica e mi poneva nel caso di perdere per dissuetudine l'agilità delle dita sulla tastiera. Una suora giovane, tarchiata, brunetta, dagli occhi vispi, dal riso pronto, tiratami in disparte. Spero, mi disse, che di quanto abbiamo discorso e saremo per discorrere in seguito, non ne vorrai far cenno alla badessa tua zia. Venuto l'indomani, il confessore, e fattolo partecipe delle pene che mi angosciavano, egli mi dichiarò che nel monastero faceva mestieri comunicarsi quasi tutti i giorni. Lo supplicai di volermi esentare da tale usanza, credendo di non potermi accostare al divino beneficio senza far precedere la confessione. Ebbi in risposta che sul principio almeno dovessi comunicarmi 2 volte per ogni settimana, più tardi poi mi sarei conformata alla comune consuetudine. Poiché scesi nel comunichino, la conversa di mia zia Lucrezia suonò il campanello per far venire il prete con la pissida. Era un uomo di 50 anni, in circa, di forte corporatura, rubicondo in faccia, con un tipo di fisionomia altrettanto volgare quanto ributtante. M'appressai al finestrino per ricevere l'ostia, chiusi naturalmente tenendo gli occhi. Posta che mi fu sulla lingua la particola, e nell'atto stesso di ritirarmi addietro, sentii sulla guancia diritta l'impressione di una mano che mi carezzava. Aprii gli occhi. Il prete aveva già ritirate le dita. Credetti d'essermi ingannata, né ci pensai più. Al giorno della seconda comunione, dimentica di quanto era avvenuto nella prima, io ricevevo la particola ad occhi chiusi, secondo il precetto. Questa volta sentii stringere leggermente il mento e nel riaprire gli occhi vidi il prete guardarmi fisso fisso e con le labbra propense all'ilarità. Non vi era più dubbio. La carezza della prima e la stretta della seconda volta non erano effetti del caso. La donna, figlia di Eva, è più dell'uomo punta dalla curiosità. Mi venne in mente di collocarmi in un sito appartato donde potessi scorgere se il prete libertino soleva far lo stesso alle monache. Lo feci e rimasi convinta che le sole vecchie andavano immuni da quella carezza. Tutte le altre lo lasciavano fare a suo agio, anzi, nel dipartirsi gli facevano la riverenza. È questo il rispetto, dissi fra me, che i ministri e le spose del Signore hanno per il sacramento dell'Eucaristia. Lasciano dunque il mondo le educande per venire a prendere in questa scuola siffatte lezioni di costumatezza e di castità? La sfera, frattanto, del mio isolamento restringevasi di giorno in giorno. La mia perseveranza nel dichiarare di non volermi monacare irritava le religiose tutte. Esse, concordi in questo disegno, davano la colpa al mio confessore, che a loro dire non sapeva persuadermi ad abbracciare la vita claustrale. No, non è buono per te quel confessore, mi andavano ripetendo, e la prova patente della sua incapacità fassi vedere nella brevissima durata della sua operazione. Egli ascolta e non parla. Dunque, privo di spontanea attività, si contiene in uno stato di passiva udizione. Ti ha egli, per esempio, significata la diversità che passa fra la vita dei mondani, la cui maggior parte piomba nelle ombre eterne, e quella dei religiosi che quasi tutti si salvano? Le monache non si davano pace. Questa mi esortava di qua, quella mi catechizzava di là, tutte dal più barbaro vernacolo e dalla più zotica superstizione tiravano argomenti onde esorcizzare lo spirito maligno che mi ispirava avversione insormontabile per la loro società. Una fra le altre, chiamata Maddalena, la più fanatica, veniva ogni sera nella stanza della zia Lucrezia con l'intento di convertirmi a tutto costo. Poiché vide anche questa tornati infruttuosi gli assalti sofistici della sua logica, vuoi farmi un piacere? Mi disse. Parla, risposi. Attendo domani il mio confessore. Quel canonico ha la dottrina di San Tommaso d'Aquino e le virtù di San Francesco Caracciolo, tuo progenitore. Una conferenza con lui ti strapperebbe certo dall'ostinazione che ti abbrutisce. Ma santo Dio, che cosa dovrò dirgli mai? Gli esporrai le ragioni per cui aborrisci lo stato monastico e udrai le sue risposte. Conoscendo che io non aveva intenzione di arrendermi, sai tu, soggiunse, che Dio, avendoti allontanata dal mondo per farti entrare in questo santo rifugio, ti ha dato una prova di bontà affinché molte altre donzelle tue pari ne possano profittare. Egli un giorno ti chiederà conto del disprezzo mostrato all'immenso suo beneficio. D'altronde, non è egli meglio purgare la coscienza degli scrupoli, consigliandoti coi servi di Dio? Almeno, compito quest'ultimo dovere, la provvidenza non ti biasimerà di incuria se persisterai nel tuo proponimento. Cotesti ragionamenti reiterati tutte le sere con crescente incalzare di loquacità, l'atmosfera oppressiva del chiostro, la mia giovanile età, l'ignoranza della pretesca e della monacale impostura, infine l'educazione che mi rendeva pieghevole ai superiori e cortese con tutti, mi fecero condiscendere alle sue premure. La mattina seguente Maddalena mi conduceva gongolante di gioia dal suo dottore reverendo. L'esultanza e la sollecitudine di quella monaca mi parvero un indizio rassicurante. Se nelle sue relazioni col prete, mi dissi, vi fosse per avventura alcunché di equivoco, m'avrebbe ella fatta di sì buon grado compartecipe della sua felicità. Non sei curiosa di vedere l'effetto di un'efficace confessione? Mi domandò ella, qualche momento prima di introdurmi nel gabinetto. Curiosa in superlativo grado, risposi sorridendo. E infatti la situazione mia somigliava a quella di una sepolta viva che, ridesta dal letargo, va brancolando intorno alle tenebrose catacombe ove si vede chiusa in cerca di un'eventuale uscita. Il canonico era un uomo di 40 anni e aveva un aspetto pieno di espressiva mobilità. Se non era un gesuita, nessuno più di lui sarebbe stato degno di divenirlo. Dopo molti complimenti e riverenze, mi domandò flebilmente il nome, l'età, la condizione e simili altri particolari. Poi, piegando l'una gamba sull'altra e stropicciandosi le mani, disse: Suppongo, signorina, che abbiate deliberato di farvi monaca. No, reverendo. E perché? Perché la clausura mi opprimerebbe soverchiamente. Con l'andare del tempo vi abituerete a questa dolce prigionia, per modo da non potervene più separare. Non siete dunque entrata di vostro piacere nel convento? No, forzata da mia madre. Ah, forzata dalla mamma. Breve pausa durante la quale il prete sembrò immerso in profonda meditazione. E ditemi un po', signorina, avete mai fatto all'amore? 2 volte. E qual era il vostro fine nell'amoreggiare? Beh, sposare l'oggetto amato. Questo? E null'altro? Vogliate aprirmi senza riserva il vostro cuore? Ma non ho avuto per mira che il solo matrimonio. Avete inviate o ricevute lettere dai vostri amanti? Mai, mi ricordai del biglietto di Domenico. Avete avuto ambasciate verbali? Neppure. Oziose interrogazioni. Come dunque hanno avuto termine i vostri amori? Sono stata abbandonata dagli amanti. E la mamma? La mamma si indispettì nel vedermi serbar la fede al secondo amante. Ecco, figlia mia, esclamò allora, ecco la differenza che passa fra lo sposo mondano e lo sposo celeste. Quelli vi hanno abbandonata, benché li amaste. Questi vi ha seguita e fedelmente vi seguirà, mentre di lui non vi cale e tuttavia persistete a respingerlo. I primi hanno amareggiato il calice puro della vostra giovinezza, il secondo vuole colmarvi di ineffabili e sempiterne voluttà. Egli vi apre la sua casa, vi introduce in questa sua famiglia, vi schiude le braccia con tenerezza e ansiosamente vi aspetta per farvi dimenticare, nei sublimi conforti dell'amor suo, i dissapori di che gli uomini vi abbeverarono. Continuò per lunga pezza su questa solfa mediocremente edificante. Al fine io, presa alla mia volta la parola, è o non è vero, dissi, che l'uomo è stato creato per l'umanità? Se, come dite, la famiglia di Cristo fosse questa ristretta comunità, perché dunque il Figlio di Dio sarebbe si fatto crocifiggere a salvamento dell'intero genere umano? Dice la Santa Scrittura che per compiacersi nella solitudine fa d'uopo essere odio o bruto? Quis solitudinem delectatur aut Deus aut fera est. Ora, reverendo mio, Io non sono né all'altezza della divinità né nella condizione delle belve. Amo il mondo e mi compiaccio nella società dei miei simili, né credo d'altronde che voi stesso abbiate in orrore l'umano consorzio, poiché, se così fosse, non sareste pur voi monaco confesso, almeno, se non anacoreta della Tebaide? A questi quesiti, disse il canonico, alzandosi e pigliando il cappello, darò risposta alla prossima nostra conferenza. Mi promettete di ritornare un'altra volta da me? Dovetti acconsentire. Era d'altronde vaga di sperimentare la famigerata persuasiva di quell'alto ingegno. Di lì a 2 giorni mi richiamò a sé per annunziarmi avergli il crocifisso ispirato nelle sue preci che egli stesso e non altri doveva essere mio confessore. Mi intimava pertanto di indirizzare al mio vecchio confessore una lettera nella quale, ringraziandolo della carità, nel glossario monastico far la carità significa confessare, gli avessi dichiarato di essermene provveduta di un altro confessore. Mostrai qualche renitenza a tale intimazione, ma il canonico, dicendo la virtù più cara a Dio essere l'ubbidienza al crocifisso, mi vietò l'uscita prima di avergli promesso l'invio della lettera propostami, non sitosto salita sulla mia stanza. La lettera fu scritta, benché con mio dolore. Ora, se il cambiamento di confessore spiacque a me, cagione di non minor dispetto fu a Suor Maddalena, la quale, se sembrava di far spiccare la fecondia portentosa del suo confessore, era peraltro ben lungi dall'immaginare che l'atto della mia conversione avrebbe richiesto più di una conferenza. La incontrai e nel guardarmi divenne livida in volto, inurbanamente mi voltò le spalle e borbottando non so che andossene via. È curiosa davvero, Maddalena, venne a dirmi un'altra monaca che pur diceva sia amica di costei. Non è la stessa che ti ha condotta forzatamente dal suo confessore? Eppure adesso piange e si dispera per gelosia. Gelosia! Esclamai io, sbruffando dalle risa. Gelosia di che? Il canonico, dal canto suo, mostra meno affetto per lei che per te, e tu del resto, congedato il primo confessore, divieni la penitente del canonico. Beh, ne rimasi stupefatta. Non potendo più richiamare il vecchio prete dopo la lettera speditagli, ne scrissi un'altra al canonico, ove gli diceva che, non avendo intenzione di procurarmi nemiche nel chiostro, avrei cercato di un altro confessore. Un'ora dopo, io udiva 6 tocchi alla campana della porteria. Era la mia chiamata. Trovai il canonico nel parlatorio. Mi avete mandato una lettera di licenziamento? Disse ridendo nel vedermi. Sì, risposi. Non sarò per certo motivo di discordia nel chiostro durante il breve tempo che vi soggiornerò. E come non sono scortese con nessuno, così non darò ad altri e tantomeno alle monache il diritto di usarmi degli sgarbi. Per me, tanto, soggiunse egli sempre ridendo. Non farò conto alcuno della vostra lettera, anzi, per affrancarvi da ogni soggetto di molestia, annunzierò oggi stesso a Maddalena che non la voglio confessare più. Per tal modo, ella non avrà più motivo di esplorare se sento o non sento affetto per voi. Ho il compito sacrosanto di condurre all'ovile la pecorella smarrita da Dio consegnatami e non mi è lecito abbandonarvi. Risposi con sostenutezza. Non so come la gelosia possa insinuarsi nel sacramento della confessione, né a me tocca di esaminare la causa di sì inqualificabile associamento. Devo però dirvi che se lascerete Maddalena, mi susciterete una persecuzione più forte. Fatemi questo favore, tenete lei e lasciate me. Da questo punto vi dichiaro che al confessionale non mi ritroverete più. Allora? Disse, deponendo l'ilarità e assumendo un tono contenuto, allora impiegherò un altro espediente. Ciò detto, se ne partì, lasciandomi nel dubbio di quello che proponevasi di fare. Avendo frattanto deliberato di non cedere sopra questo argomento, pregai mia zia la badessa di trovarmi un altro confessore, badando che gli fosse un vecchio e che non avesse altra penitente nel monastero. Ella ne prese l'incarico. Tanto più che era pure lei dispiacente di vedermi involontariamente caduta in quell'impiccio. Verso le 3 intesi nel corridoio un gran fracasso. Mi affacciai dalla loggia e vidi Maddalena nel mezzo di un crocchio di monache e di converse, nell'atto di giungere e presentare alle sue compagne un foglio piegato in forma di lettera. Parlavano, o per meglio dire, strillavano tutte insieme, con gesticolazioni esagerate che ricordavano la scena delle streghe di Macbeth. Un affare di confessore per le monache e affare di Stato, e un casus belli. Compresi non poter essere altro che una lettera del canonico, e dal fondo del cuore maledissi il momento che m'avevano portata in quel santo pandemonio. Il fracasso andava crescendo. Era in piedi tutta quanta la comunità, dalle confuse strida della rivolta non distinguevasi che una sola parola, mille volte ripetuta, la parola canonico. Intanto la vecchia badessa, appoggiata a un'educanda, accorreva al tafferuglio e cercava di calmare Maddalena, promettendo che sua nipote non si sarebbe più confessata dal canonico e che la stessa m'avrebbe trovato un altro confessore. «Me ne date la vostra parola!» gridò Maddalena da spiritata, mentre 70 bocche le stavano chiuse d'intorno in atto di silenziosa aspettativa. «Tenetemi per impegnata!» soggiunse la badessa. «Brava, brava!» esclamarono in coro le monache. Era insopportabile, era troppo doloroso vederlo chiuso nel confessionale con un'altra. E congratulandosi con Maddalena della rivendicata proprietà, le andavano dicendo: giustizia è fatta, statene ormai tranquilla. Da quella scena singolare, che non sarà mai cancellata dalla mia memoria, incominciai a convincermi che la premura delle penitenti per i confessori e quella dei confessori per le penitenti aveva la sua ragion d'essere in un certo tale sentimento non troppo conforme al precetto evangelico «ama il tuo prossimo come te stesso». Ma non doveva la scena terminare lì. Stava scritto che l'argomento della mia confessione trovasse la soluzione presso eminenti autorità della Chiesa Apostolica Romana. Il mattino seguente fui chiamata al parlatorio. Indovinate chi cercava di me? Monsignor Vicario. Che voleva da me? Voleva dirmi che il canonico era stato da lui. Aveva gli raccontato il fatto successo fra Maddalena e me, ed egli, nella sua qualità di capo della Chiesa napoletana, aveva deliberato dover rimanere a me e non a Maddalena la contesa confessione. A completare la commedia non ci mancava che l'autorità del Papa. Non valsero né le mie proteste né il mio pianto. La zia mi sgridò affermando che al vicario bisognava obbedire senza replica. Salii piangendo nella mia stanza, ove scrissi una lunga lettera a mia madre, raccontandole tutto e rammentandole che, prossimo essendo aspirare il secondo mese, io desiderava di lasciare il convento al più presto possibile. Troppo lungo sarebbe il racconto delle mie sofferenze per causa di questa ridicola gelosia. Ebbe termine soltanto la persecuzione, allorché Maddalena trovò un altro confessore e dimenticò il primo. Avendo intitolato questo capitolo Scene e costumi, riunirò in esso tutto ciò che relativamente alle monache e ai preti ho io stessa veduto nei quattro monasteri da me abitati, o che mi giunse all'orecchio di altri chiostri napoletani, come pure farò laddove discorrerò dei tre voti di umiltà, castità e povertà delle monache. Seguirò questo metodo di esposizione, per non avere a ritornare più volte sullo stesso argomento, troncando il racconto. La frenetica passione delle monache per i preti e per i monaci supera ogni credere. Ciò che specialmente le rende affezionate al loro carcere si è l'illimitata libertà che godono di vedere e di scrivere alle persone amate. Questa libertà le localizza, le incorpora, le identifica al chiostro sì fortemente che sono infelici allorché per causa di grave malattia o prima di prendere il velo debbono passare qualche mese in seno alla loro famiglia, accanto del padre, della madre, dei fratelli, non essendo presumibile che questi parenti permettano ad una giovinetta di passare più ore al giorno in misteriosi colloqui con un prete o un monaco e di mantenere seco lui continua corrispondenza. Vi sono delle Eloise che più ore spendono nel confessionale in soave trattenimento col loro Abelardo in sottana. Peccato che non capiscano un iota di latino. Altre avendolo vecchio il confessore, hanno di soprassello un direttore spirituale con cui si trattengono lungo tempo da solo a sola nel parlatorio. E quando questo non basta, trovano il mezzo di una malattia simulata per averselo più ore da solo nella propria stanza. Vi sono delle monache che, senza l'intervento del confessore, non ardiscono fare neppure la lista del bucato. Una di queste penitenti vedeva il suo 3 volte al giorno. La mattina le portava le pietanze per il pranzo. Più tardi, venendo egli a dir messa in chiesa, la penitente lo serviva di biscottini e di caffè. E il dopopranzo, poi, ritrattenevasi con lui fino a ora tarda per fare, diceva ella, il conto di quanto aveva speso la mattina. Non contenti del resto di tante conferenze, si scrivevano 2 volte negli intervalli delle visite. Un'altra monaca aveva amato un prete fin dal tempo che questi serviva in chiesa da chierico. Pervenuto al sacerdozio, fu fatto sacrestano, ma dai suoi compagni denunziata la tresca che da diversi anni manteneva con la monaca, gli fu dai superiori proibito finanche di passare per la via dove il monastero era posto. La monaca ebbe la romanzesca virtù di restargli fedele per 16 anni, nel corso dei quali si scrissero ogni giorno. Si scambiarono regali e di tratto in tratto si videro di soppiatto al parlatorio. Cambiato finalmente il personale, uno dei superiori ottenne la monaca, benché ormai giunta all'età matura, di averselo per confessore. Allora, riconoscente alla santa sua protettrice della grazia ricevuta, le fece dono di numerose candele e di fiori, dispensò confetti a tutta la comunità, siccome in occasione di sposalizio. Grandì le felicitazioni delle compagne, non ricusando anche qualche madrigaletto congratulatorio, e finalmente costruì, a proprie spese, un confessionale distinto, onde aversi le pratiche spirituali libere a tutte le ore della giornata. Un personaggio altamente collocato fece un mattino chiamare la badessa del monastero e consegnolle una lettera da lui stesso trovata per la via. Quel foglio, mandato da una delle spose di Cristo al suo prete, era stato smarrito dalla domestica. Le espressioni materiali che in esso leggevansi avevano scandalizzato la coscienza del gentiluomo. Una cortigiana avrebbe fatto uso di più modeste frasi. Un giovedì santo, a notte avanzata, trovandomi nel coro, vidi svolazzare, girando per aria, un foglio che andò a cadere ai piedi del Santo Sepolcro. Era il biglietto che un'educanda del luogo indirizzava al chierico. Una giovane novizia, non avendo di che fare le spese della professione, pensò di ricorrere alla carità di un confessore vecchio, cioè a farsi confessare da un vecchio, ma ricchissimo, con l'intenzione di fargli delle elemosine, sino a che le avesse fornito il denaro occorrente, ma con la riserva però di surrogargliene poscia un giovane con cui già trovavasi in recondita intrinsechezza. Il vecchio era di cuore tenero, ma circospetto per propria esperienza. Le presentò molti regaletti, ma fu restio a somministrarle il denaro richiesto, essendosi avveduto che la confabulava nel parlatorio con un rivale più giovine di lui. La novizia, indispettita, congedò allora lo spilorcio vecchio e si prese per confessore il prediletto, per lo che, montato in furia e consumato da gelosia, il vecchio ripudiato si appostò presso la porta della chiesa il primo giorno che andò il rivale a confessare la sua penitente. Prosit, vedendolo, gli disse col fiele in bocca. Vobis, rispose l'altro sogghignando. Di là a poco il vecchio morì di crepacuore e il giovine, perché povero, fu supplantato da un altro confessore di meno fresca età, ma fratello di un ricco funzionario. Essendo inferma una monaca, il prete la confessò nella cella, indi a non molto l'ammalata si trovò in uno stato interessante, ragion per cui il medico, dichiarata idropica, la fece uscire dal monastero. Una giovanetta educanda scendeva tutte le notti al luogo delle sepolture, ove da un finestrino che comunicava con la sacrestia entrava in colloquio con un pretino della chiesa. Consumata dall'amorosa impazienza, non era in quelle escursioni impedita né dal cattivo tempo né dal timore di essere scoperta. Udì una volta un forte strepito vicino a sé. Nel fitto buio che la circondava, credette scorgere un vampiro nell'atto di aggraticciarsi ai suoi piedi. Erano i topi. Ne fu talmente percossa di spavento che di là a pochi mesi morì di consunzione. I confessori di comunità sono scelti dai superiori per un triennio ad uso di quelle monache e di quelle converse che non ne hanno uno particolare, per essere pervenuti ad un'età disadatta agli intrighi amorosi. Ora, un confessore di comunità aveva prima della sua nomina una penitente giovane. Ogni volta che veniva per assistere a una moribonda e quindi pernottava nel monastero, la giovane monaca, scavalcando le logge che separavano la sua dalla stanza del prete, si recava presso il maestro e direttore dell'anima sua. Un'altra fu assalita dal tifo. Durante il delirio altro non fece che inviar baci al confessore assiso accanto al letto. Egli, coperto di rossore per la presenza di persone strane, portava innanzi agli occhi della sua inferma un crocifisso, lamentevolmente esclamando: "Poveretta, bacia il suo sposo!" Sotto vincolo di segretezza mi confidò un'educanda tanto bella di forme e candida di costumi quanto nobilissima di prosapia, d'aver avuto nel confessionale per mano del suo confessore una lettura, come diceva, interessantissima perché relativa allo stato monastico. Spiegai il desiderio di sapere il titolo ed ella, per farmi vedere lo stesso libro, anticipò la precauzione di mettere all'uscio il chiavistello. Era La monaca di Diderot, libro, come tutti sanno, pieno di disgustose laidezze. E però nelle mani di un'innocente giovinetta, più che libro al mondo perniciosissimo. Dalla conversazione dell'educanda, avendo raccapezzato di che in quello scritto trattavasi, le suggerii di interromperne le letture e restituire immantinente lo sconcio prestito. Ma qual fu la mia sorpresa nell'udire dalla tenera zitella non essere ella nuova in letture di simile natura. Per favore del confessore medesimo, aveva anteriormente divorato e per ben 4 volte un altro libro scandaloso, La cronaca del monastero di Sant'Arcangelo a Baiano, libro allora proibito dalla polizia borbonica. Io stessa ricevetti da un monaco impertinente lettera in cui mi significava che non appena mi aveva veduta, concepita aveva la dolcissima speranza di divenire mio confessore. Un attillato vagheggino, un moschiato bellimbusto, non avrebbe impiegato frasi più melodrammatiche per domandare se nutrire o soffocar doveva la detta speranza. Un prete, che del resto godeva presso tutti una reputazione di integerrimo sacerdote, ogni qualvolta mi vedeva passare dal parlatorio, soleva farmi: "Ps, cara, vieni qua, ps, ps, vieni qua." La parola cara, in bocca di un prete, mi muoveva non meno nausea che raccapriccio. Un prete, infine, il più fastidioso di tutti, per l'ostinatissima sua assiduità, voleva essere amato da me ad ogni costo. Non ha immagini la poesia profana, non sofismi la retorica, non scaltre interpretazioni la parola di Dio, che egli non abbia adoperate per convertirmi alle sue voglie. Darò un saggio succinto della sua dialettica. Bella figliuola, mi disse un dì, sai tu quello che veramente sia Dio? È il creatore dell'universo, risposi io seccamente. No, no, no, non basta questo, riprese egli ridendosi della mia ignoranza. Dio è amore, ma amore astratto che riceve la sua incarnazione nel mutuo affetto di due cuori che si idolatrano. Tu adunque non puoi né devi amare il Dio nell'esistenza astratta, devi altresì amarlo nella sua incarnazione, ossia nell'esclusivo amore di un uomo che ti adori. Dunque, nell'atto di adorare il proprio amante, dissi io, la donna nubile adorerebbe la stessa divinità. Sicuramente, ripeté 10 volte il prete, sicuramente, ripigliando coraggio dalla mia conclusione e lieto per il felice effetto del suo catechismo. In tal caso, ripresi io prestamente, mi sceglierei per amante un uomo del mondo piuttosto che un prete. Dio ti liberi, figlia mia, Dio ti liberi da quella peste, soggiunse inorridito il mio interlocutore. Amare un uomo del mondo, un profano, un empio, un miscredente, un infedele. Ma tu andresti inevitabilmente all'inferno. L'amore del sacerdote è amore sacro, quello del profano è vituperio. La fede del prete emana dalla stessa fede prestata alla Santa Chiesa. Quella del profano è menzognera, quanto è falsa la vanità del secolo. Il prete purifica giornalmente l'affetto suo nella comunione della Santissima Sostanza. L'uomo del mondo, seppur sente amore, spazza di notte con l'amor suo tutti i fangosi ruscelli del trivio. Ma tanto il cuore che la coscienza mia rifuggono dal prete, risposi io. Ebbene, se non volete amarmi perché sono vostro confessore, avrò il mezzo di togliervene gli scrupoli. Alle nostre amorose espansioni premetteremo sempre il nome di Gesù Cristo, così l'amore nostro sarà un'offerta gratissima al Signore e monterà pregno di profumi al cielo, siccome fumo d'incenso nel santuario. Ditemi, per esempio, vi amo in Gesù Cristo, questa notte ho sognato di voi in Gesù Cristo. Avrete la coscienza tranquillissima, poiché così facendo santificherete qualunque trasporto. Talune circostanze, non indicate qui che alla sfuggita, mi obbligavano a ritrovarmi in frequente contatto con questo prete di cui taccio il nome. Se non che ad un monaco, rispettabile per l'età e per la morale, avendo io domandato che mai significasse quel premettere il nome di Gesù Cristo alle amorose apostrofi, è, mi disse, una setta orrenda e sfortunatamente troppo estesa, la quale, abusando del nome di Cristo, si fa lecite le maggiori nefandità.